Avete percorso 108 km in 6 giorni. Ogni giorno avete fatto una pausa di 8 ore più una di un'ora e una di 2 ore. Sommate a 8 pause da 30 minuti. Escludendo tutte queste pause, quale velocità media in chilometri orari vi ha condotti fino a qui?